Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Scintille nell'aula del Consiglio regionale. Il capogruppo di Patto per l'autonomia Morettuzzo chiede le dimissioni dell'assessore Bini perché è rimasto dirigente della società Euro and Promos. Tiepidi segnali di ripresa dalla produzione industriale della provincia di Udine nei primi tre mesi dell'anno. Dopo un'estate trainata dal turismo, Confindustria prevede un raffreddamento dell'economia in autunno. Mattinata di assemblea allo stabilimento Electrolux di Porcia, il giorno dopo il coordinamento nazionale di Mestre. Il futuro dello stabilimento è al centro di un confronto la prossima settimana. Caso Regeni, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di chiedere alla Consulta di decidere sulla processabilità dei quattro imputati. Da Trieste il sigillo trecentesco all'OGS, un orgoglio per la città, ha detto il sindaco di piazza, il record dell'ultima spedizione in Antartide. Oggi è la giornata mondiale senza tabacco. Il fumo provoca un tumore su tre. I progressi della ricerca in questo campo in cui eccelle l'ICGEB di Trieste. Eventi di stress acuto aumentano il rischio di recidiva di psicosi che necessita di ricovero ospedaliero. Allo studio del King's College di Londra ha partecipato anche l'Università di Udine e lo stress colpisce anche il 58% degli studenti in regione. A un anno dalla morte, Trieste e il Parlamento europeo ricordano lo scrittore Boris Pacor. A Bruxelles una mostra che ripercorre le sue opere letterarie. Ancora buongiorno da Elisabetta Zaccolo e da Daniele Lettigi in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Oggi in Consiglio regionale a tenere banco la questione del ruolo dell'assessore regionale Sergio Emidio Bini all'interno di Euro and Promos, la società di servizi fondata dallo stesso assessore. Per un aggiornamento ci ha raggiunti in studio Antonio Di Bartolomeo. Eh sì, scintille poco fa in aula per questa che è stata di fatto la prima vera sessione d'aula della legislatura, la sessione che peraltro è ancora in corso. Tra le varie interrogazioni a risposta immediata, la più attesa era quella del candidato del centrosinistra alle elezioni in aprile, Massimo Morettuzzo, l'esponente del Patto per l'autonomia, ha chiesto all'assessore alle attività produttive e al turismo Sergio Bini quali siano attualmente i suoi ruoli nell'ex cooperativa, oggi società per azioni Euro e Promos, di cui è stato presidente. Bini ha ammesso che non è solo socio di maggioranza relativa, fatto peraltro già noto, ma anche dirigente, posizione che finora non era emersa nei cinque anni in cui ha ricoperto lo stesso ruolo, nel quale è stato riconfermato recentemente dal presidente Massimiliano Fedriga. Non ho avuto ruoli operativi, si è difeso Bini in aula, ma per Morettuzzo l'affermazione dell'assessore non è sufficiente, di qui la richiesta di dimissioni per il conflitto di interessi che deriverebbe da questo ruolo che ricopre, da questo doppio ruolo che ricopre. Nel frattempo, dicevamo, la seduta d'aula va avanti, una seduta aperta dalla commemorazione del consigliere Renzo Pascolat, morto recentemente, e con una lunga celebrazione in onore degli alpini alla presenza del presidente nazionale dell'associazione alpini Favero, che ha ricordato la recente adunata di Udine. Il giudice per le indagini preliminari di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, ha deciso di inviare alla Corte Costituzionale gli atti del procedimento sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, ucciso al Cairo a gennaio del 2016. Il giudice chiede alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla questione relativa alla notifica degli atti agli imputati, i quattro agenti dei servizi segreti egiziani, per superare la stasi del processo. Stamattina, in attesa della decisione, davanti al Tribunale di Roma, Piazzale Clodio, si era riunita una piccola folla di attivisti, tra cui anche l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, oltre ai rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa e dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Associazione Articolo 21. Oggi, ha detto prima della decisione l'avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, è una giornata importante nella quale si decideranno le sorti di questo processo. Tutta la gente che sta qui sta a dimostrare che non è una storia di famiglia, ma una storia che riguarda la dignità di questo paese e la sicurezza di tutti i suoi cittadini nel mondo. Sono ancora un po' timidi, e cambiamo argomento, il segnale di ripresa dell'industria in provincia di Udine. I dati dell'analisi congiunturale di Confindustria sono stati resi noti poco fa. Meglio del trimestre passato, peggio dell'anno scorso. La produzione industriale in provincia di Udine è diminuita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, ma è cresciuta del 4,3% rispetto all'ultimo trimestre dell'anno scorso. In questi primi tre mesi, più 12% di ordinativi in confronto alla fine del 2022. I numeri sono contenuti nell'analisi congiunturale di Confindustria Udine. Il suo presidente, Gianpietro Benedetti, prevede un raffreddamento dell'economia in autunno dopo una buona estate trainata dal turismo. Raffreddamento legato ai tassi di interesse e al calo della domanda. Saranno importanti alcune variabili, la qualità dei progetti PNRR sul territorio, l'andamento dell'inflazione e un'eventuale soluzione alla guerra in Ucraina, che potrebbe dare il via a una ricostruzione, a cui parteciperebbero anche aziende del nostro territorio. Il segno meno anno su anno di alcuni comparti, legno e mobile, carta e chimica, potrebbe essere da rapportare all'iperaccumulo di magazzino l'anno scorso, per i timori legati ai prezzi e alla disponibilità di materie prime, e alla contrazione dei consumi. Ma i dati consolidati del 2022 arriveranno solo in autunno, ci spiega l'economista Fulvio Mattioni, a cui abbiamo chiesto di delineare il contesto in cui si inseriscono queste stime. Dal 2008 al 2022 noi abbiamo perso il 30% del reddito prodotto dal settore manifatturiero in provincia di Udine, che è un dato molto negativo, anche se rapportato a realtà vicine e lontane. E a questo si può aggiungere la perdita di imprese che registra il settore. In provincia di Udine, sempre nello stesso trimestre che abbiamo detto prima, sono oltre 1.100 le imprese perse in Friuli-Venezia Giulia, però di queste 800 sono in provincia di Udine. Perdiamo occupazione, molti nostri giovani sono andati all'estero espatriati e il dramma di questo espatrio è che è senza ritorno. E dall'altra parte siamo meno attraenti anche per gli immigrati economici perché vengono pagati meglio altrove. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Assemblea dei delegati di Confindustria ha rinnovato il Consiglio Generale per il biennio 2023-2025. Tra i 15 rappresentanti delle grandi imprese è stato eletto Pier Roberto Folgero, amministratore delegato del gruppo Fincantieri. Nel Consiglio Generale appena rinnovato, che sarà chiamato a individuare il prossimo presidente dell'Associazione degli Industriali, siedono inoltre, quasi quali componenti di diritto, Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, Pierluigi Zamò, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Michele Dacol, presidente regionale della piccola industria, Sergio Razzetto, past president di Confindustria Alto Adriatico e Gianfranco Bisaro, presidente della metalmeccanica della stessa associazione. Adesso torniamo ad occuparci di Electrolux dopo il confronto azienda-sindacati di ieri a Mestre. Ricordiamo che sul futuro del sito di Porcia l'appuntamento è stato rinviato al 6 giugno e c'è molta apprensione ovviamente tra i lavoratori e i sindacati. È stata una mattinata intensa di assemblee allo stabilimento Electrolux di Porcia il giorno dopo il coordinamento nazionale di Mestre. Dall'incontro azienda-sindacati non è arrivata alcuna rassicurazione sulle voci di una vendita del gruppo ad acquirenti asiatici. Ieri i vertici italiani della multinazionale hanno ribadito il loro no comment ai rumors. Sul tavolo anche il preoccupante calo di vendite che interessa in particolare Porcia, scesa sotto quota 700.000 pezzi. Per i lavoratori le notizie non sono positive. Per far fronte alla situazione di mercato, l'azienda ha previsto di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria ancora per tutto il mese di giugno. Si continuerà a lavorare su 6 ore giornaliere, da definire eventuali altri fermi produttivi. L'approfondimento sul futuro di Porcia è in programma il 6 giugno. Gianni Piccinin, FIM CISL, appena terminate le assemblee in fabbrica, qual è l'umore tra i lavoratori e le lavoratrici? Sicuramente l'umore tra i lavoratori e le lavoratrici è una preoccupazione generale per il discorso dei volumi, sicuramente, perché già maggio è stato molto scarico, giugno si prevede un mese ulteriore scarico con necessità anche di ulteriore cassa integrazione. Anche se l'azienda nell'incontro di ieri, magari non soddisfatti al 100%, ha comunicato che tendenzialmente i volumi dovrebbero crescere nella seconda parte. I lavoratori sono preoccupati non solo per i volumi ma anche per la questione della vendita, dove l'azienda ha detto no comment e quindi lascia aperto tutta una serie di ipotesi che vedremo nelle prossime settimane. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 21 gradi con un vento da est-nord-est, bora a 51 km orari. A Udine 23 gradi e mezzo, a Pordenone 24, a Gorizia 23, a Tolmezzo 22 gradi, a Tarvisio 18, a Forni di Sopra 17 e mezzo, a Sappada 16 e mezzo, a Piancavallo 15, sul Monte Zoncolan 11 gradi, sul Monte Lussari 8 gradi e mezzo, a Lignano 25 gradi, a Grado 24. Ed ora le previsioni. Oggi nuvolosità variabile con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale dal pomeriggio, più probabili sui monti. Su pianura e costa soffierà bora moderata, più sostenuta nella zona di Trieste. Per domani, su pianura e costa, cielo in prevalenza poco nuvoloso, sui monti variabile. Nel pomeriggio, sulla zona montana, probabili rovesci e temporali, possibili anche in qualche zona di pianura. Venti a regime di brezza. Siamo alla cronaca. Un uomo di 57 anni, titolare di un panificio, è rimasto ferito nel suo locale di Cividale dopo che un braccio gli è rimasto incastrato in un macchinario. L'incidente è accaduto la notte scorsa intorno alle 3 per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cividale e dei vigili del fuoco del distaccamento. Lo stesso titolare è riuscito a spegnere il macchinario e a chiamare aiuto. Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo, che poi è stato trasportato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni non sono gravi. Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni in cui le carceri registrano il più alto tasso di affollamento. L'istituto di Tolmezzo, in particolare, risulta il più affollato d'Italia. La denuncia dell'associazione Antigone nel nuovo rapporto sullo stato delle carceri. Il carcere di Tolmezzo è il più affollato della regione e ha un tasso di affollamento del 190%, peggiore del San Vittore a Milano, fermo al 185%, e superiore anche rispetto alla media italiana, che è di circa il 119%. Prendendo in considerazione i 5 penitenziari del Friuli Venezia Giulia, il tasso scende al 135%, ma resta tra le situazioni più preoccupanti, dietro alla Lombardia al 151% e alla Puglia al 145%. Un'emergenza nell'emergenza delle carceri italiane, nelle quali, denuncia l'ultimo rapporto Antigone, i detenuti crescono circa 5 volte di più rispetto all'aumento dei posti e alla capienza regolamentare. Secondo il report dell'Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale penitenziario, che nel 2022 ha visitato 97 istituti penitenziari, sul sovraffollamento pesa la custodia cautelare, in calo rispetto al passato, ma più alta della media europea. Crescono i condannati a pene brevi dopo la pandemia, 1 su 2 a meno di 3 anni da scontare, ma sono molti meno che nel passato. Per Antigone, se per loro fosse attivato il sistema delle misure alternative, il problema del sovraffollamento sarebbe risolto. La maggior parte della popolazione detenuta si trova in carcere per delitti contro il patrimonio, subito seguiti da quelli contro la persona e quelli in violazione della normativa sulle droghe. E il Friuli Venezia Giulia spicca anche tra le regioni col maggior numero di stranieri detenuti, che sono il 41,9% del totale, dietro a Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. A incidere anche l'aumento, sempre rilevato da Antigone, dei detenuti al 41 bis, condannati per reati associativi, che in regione possono trovare posto solo a Tolmezzo. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono partiti questa mattina dalla sede di Palmanova della Protezione Civile regionale 31 volontari e un funzionario diretti a Forlì per dare il cambio ai colleghi che si trovano in quella città da una settimana. È la 7ª colonna mobile della Protezione Civile regionale che parte dal Friuli Venezia Giulia dall'inizio dell'emergenza alluvione in Emilia-Romagna. La nuova colonna mobile regionale, composta da volontari provenienti da gruppi comunali di numerosi paesi della regione, trasporta materiale e strumentazioni necessari per la pulizia delle strade e per lo svuotamento di case e scantinati. 31 maggio del 1972, 3 carabinieri vengono uccisi a Peteano in un attentato dinamitardo organizzato ed eseguito da esponenti di estrema destra appartenenti al gruppo Ordine Nuovo. A Peteano è stato compiuto un attentato, ha dichiarato la senatrice del Partito Democratico Tatiana Roiz, pienamente inserito nella strategia della tensione a livello nazionale, in un grumo di depistaggi e coperture che ha inquinato spezzoni dello Stato e rischiato di incrinare la democrazia. La proiezione internazionale e l'intervento di esponenti politici di destra di primissimo piano, la correlazione con le armi di un nasco di Gladio, ha concluso Roiz, ci ammoniscono a dare il giusto rilievo a questo episodio tragico della nostra storia. Questa mattina il conferimento del sigillo d'oro della città di Trieste, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, reduce da un'importante missione in Antartide con la nave rompighiaccio Laura Bassi. Era il 29 gennaio del 2023, la rompighiaccio dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Laura Bassi, capitanata dal triestino Franco Sedmak, ha raggiunto il punto più a sud nell'Antartide mai toccato da una nave. Un record che ha portato alla spedizione di ricerca partita da Trieste, diretta da Franco Coren, direttore del Centro Gestione Infrastrutture dell'OGS, visibilità mediatica mondiale. Un orgoglio per la città, ha detto il sindaco di Piazza, che ha voluto rendere omaggio all'impresa e all'attività dell'OGS consegnando al presidente dell'istituto Nicola Casagli il sigillo trecentesco. L'OGS è sempre stato una punta di diamante della nostra città, della nostra ricerca, e dopo l'orgoglio di tutto il mondo ha parlato di questo obiettivo raggiunto, e questo non può che farmi piacere, insomma, per la mia città. Il raggiungimento del punto più a sud offre anche l'opportunità di attirare l'attenzione sulle ricerche in Antartide, nel caso dell'OGS finanziate anche dal programma nazionale. È molto difficile spiegare perché si fa ricerca in Antartide, ma la ricerca in Antartide è strategica, è condivisa con tanti paesi avanzati, sia per le risorse che ancora sono sconosciute in quel continente, e anche per la sensibilità che l'ambiente antartico ha ai cambiamenti ambientali e ai cambiamenti climatici. Sono soddisfatto di questo risultato che abbiamo ottenuto quest'anno. Principalmente sono soddisfatto per la grande visibilità che abbiamo dato alla nave, visibilità che secondo me la nave merita, visibilità che abbiamo dato all'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, e la visibilità che abbiamo dato anche alla nostra bella città di Trieste. Al comandante della Laura Bassi, Franco Sedmak, che ha piantato anche la bandiera con l'alabarda triestina alla latitudine di 78 gradi, 44 minuti e 280, il sindaco ha consegnato lo stemma dell'alabarda, che è stato deciso assieme alla direttrice dell'istituto Paola Del Negro, che sarà fissato sulla plancia di comando della Laura Bassi, nave che nell'ultima spedizione ha salvato anche 92 naufraghi nel Mar Ionio. Trieste, Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il fumo è la prima causa di morte evitabile nella nostra società ed è legato all'insorgenza di un tumore su tre. Un'emergenza a cui la Fondazione AIRC risponde sostenendo la migliore ricerca oncologica e sensibilizzando cittadini e istituzioni sui rischi del fumo di tabacco in tutte le sue forme. Oggi infatti ricorre la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Sul fronte della ricerca in questo campo, in primo piano c'è l'ICGEB di Trieste. Il fumo causa circa l'85-90% dei casi di tumore del polmone, ma l'elenco è lungo. Aumenta infatti anche il rischio di sviluppo di tumori del cavo orale e della gola, del pancreas, del colon, della vescica, del rene, dell'esofago, del seno, soprattutto tra le donne più giovani, e di alcune leucemie. Il tumore del polmone in Italia è la seconda neoplasia più frequente negli uomini e la terza nelle donne, con 34.000 decessi stimati solo per il 2021. Per far fronte a questa emergenza, negli ultimi tre anni la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ha destinato oltre 21 milioni di euro a circa 100 progetti di ricerca dedicati al tumore del polmone, con l'obiettivo di sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci e mirate. Tra questi, il progetto del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia di Trieste, con il quale si cerca di individuare i meccanismi che permettono alle sentinelle del sistema immunitario di riconoscere le cellule tumorali come estranee, scatenando una risposta che permette di eliminarle in fase precoce. Federica Benvenuti è a capo del team di ricerca dell'ICGEB. L'immunoterapia è una terapia standard in moltissimi casi ormai per il tumore al polmone. Il problema è che, nonostante dei risultati incoraggianti, la frazione di pazienti che rispondono e che traggono beneficio da questa terapia è ancora limitata. Quindi la ricerca si sta concentrando sul capire perché alcuni gruppi di pazienti rispondono ed altri no, e soprattutto si mira ad aggiungere nuove molecole che possano espandere la platea e il numero di pazienti che possono trarre beneficio da questo nuovo approccio. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Eventi di vita stressanti aumentano il rischio di recidiva di psicosi che necessita di ricovero ospedaliero. E quanto emerge da una ricerca decennale coordinata dal King's College di Londra, partecipata dall'Università di Udine assieme all'Università di Losanna e all'Istituto Karolinska di Stoccolma. L'Ateneo Friulano era coinvolto con il Dipartimento di Area Medica e il ricercatore in psichiatria Marco Colizzi. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica internazionale The Lancet. Obiettivo dello studio era individuare i fattori biologici e ambientali che aumentano il rischio di recidiva di psicosi. La ricerca, realizzata nel Regno Unito, ha consentito nell'arco di un decennio di raccogliere una grande quantità di dati. I risultati ottenuti hanno implicazioni per la pratica clinica e a livello di politiche sanitarie. Suggeriscono, spiega Marco Colizzi, che ha conseguito il dottorato in neuroscienze al King's College, la necessità di concentrarsi sullo sviluppo di interventi a livello individuale di servizio sanitario che riuniscano approcci convenzionali come la psicoterapia e la psicoeducazione, nonché campagne di sensibilizzazione e interventi complementari come cambiamenti nello stile di vita per aiutare a mitigare gli effetti dannosi degli eventi di vita stressanti e prevenire la ricaduta di psicosi. A proposito di stress, il 58% degli studenti dichiara di soffrirne mentre studia. La regione, con diversi progetti, sta promuovendo una cultura del benessere a scuola, prevista anche nella meditazione in classe. 300 docenti in Friuli Venezia Giulia sono stati formati dalla regione ad usare le tecniche di mindfulness, un percorso di autoconsapevolezza che aiuta a gestire le emozioni, aiuta a migliorare la concentrazione e la gestione dello stress. I docenti hanno imparato queste tecniche, ne traggono beneficio per se stessi e le portano in classe. Luana Sandrin, Direzione Regionale Salute. La mindfulness ormai è una tecnica riconosciuta a livello internazionale e che ha dimostrato come sia efficace a ridurre l'aggressività, a gestire lo stress, a migliorare anche le relazioni con gli altri. Del resto, la cronaca di questi giorni, un ragazzo ad Abbiategrasso che ha aggredito con un coltello l'insegnante, mostrano l'incapacità dei giovani di gestire emozioni, stress, ansia. Secondo i recenti dati della sorveglianza HBSC, dedicata ad analizzare il benessere di ragazzi in età scolare, più della metà degli studenti italiani dichiarano di essere nervosi mentre studiano. La media nel resto del mondo è del 37%. Alla domanda se i ragazzi sentono delle sintomatologie quali disturbo del sonno, mal di testa, mal di stomaco, avere almeno due sintomi durante la settimana, ci sono quasi 50% rispondono di sì. Quindi c'è uno stato di malessere e anche nella relazione con i docenti peggiora l'aumentare dell'età. Non si sentono molto valutati, non si sentono trattati in modo equo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Come sta cambiando il mondo dell'informazione e del giornalismo? Come evolve l'informazione radiotelevisiva? Per rispondere a queste e altre domande sull'informazione oggi, a Gorizia, nel complesso di Santa Chiara, si sta tenendo il workshop Le nuove frontiere del giornalismo. I temi, gli strumenti, un incontro organizzato nell'ambito della premiazione della seconda edizione del premio di laurea dedicato al nostro collega Piero Villotta, scomparso 3 anni fa. A vincerlo quest'anno è stata Alessandra Romanello, laureata in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, che ci racconta qual è stato il tema della sua tesi e perché ha deciso di partecipare al premio. Allora, l'argomento della tesi di ricerca verte sul Diversity and Disability Management, ovvero sia un approccio inclusivo per le persone con disabilità ed autismo ad alto funzionamento. Con autismo ad alto funzionamento parliamo ad esempio della sindrome di Asperger. Essendomi laureata in un corso magistrale di comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, mi sono più riferita all'ambito aziendale. Perché ha deciso di partecipare al premio? Conosceva Piero Villotta? Sì, oltre a essere lui stesso un grandissimo giornalista conosciuto in tutta la regione, e proprio mi era arrivato anche l'avviso per potermi candidare al bando, e quindi mi è sembrata anche una buona occasione di dar spazio, ecco, e voce a determinati temi che per molte persone sono scontate ma che non dovrebbero esserlo. E secondo me anche l'incipit, diciamo, del premio in sé è quello appunto di parlare, perché solo attraverso la parola, il discorso, la comunicazione, si può arrivare a qualcosa, ecco, e questo era anche l'obiettivo della mia tesi. A un anno dalla morte, più di un'iniziativa per ricordare lo scrittore Boris Pacor. Oggi, in piazza Oberdan a Trieste, il Comitato Pace, Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci e il Centro Italo-Sloveno lo ricorderanno invitando a portare una rosa in suo ricordo. Ma a ricordarlo anche una mostra a Bruxelles. Una figura importante non solo per Italia e Slovenia, ma per tutta l'Europa e per i valori che la animano. Uno scrittore per sempre scolpito nella memoria dell'Unione Europea per aver testimoniato nei suoi libri e con la sua stessa vita l'orrore dei lager e la pulizia etnica messa in atto dal regime nazifascista. È con questo spirito che la memoria del triestino Boris Pacor arriva anche al Parlamento Europeo, con una mostra organizzata a Bruxelles nel primo anniversario della morte. L'esposizione è stata inaugurata ieri con la partecipazione di diversi politici e persone legate a Pacor, tra cui la senatrice Tatiana Reutz, che ha ricordato il giorno della restituzione del Narodni Dom di Trieste alla comunità slovena nel 2020, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e l'emozione dello scrittore che della Casa della Cultura slovena aveva visto l'incendio per mano fascista quando era bambino. Pensata come mostra itinerante che poi viaggerà per l'Europa, pone l'accento sulle opere letterarie di Pacor. Vi si trovano tutte le decine di traduzioni di Necropoli, il libro in cui lo scrittore ricorda la sua esperienza in un campo di concentramento, e un facsimile delle prime 4 pagine dattiloscritte, conservate presso la Biblioteca Nazionale Universitaria della Slovenia. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo con il calcio. In Serie C, dopo la vittoria per 1-0 all'andata, il Pordenone ospita stasera alle 20.30 al Tognon di Fontanafredda il Lecco nella gara di ritorno dei quarti di finale dei play-off promozione. È tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Viola Romanese, Walter Vidonis. A voi tutti grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.